Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. A mio avviso le ONG potrebbero essere finanziate, alcune ONG, ripeto, tenuto distinto, dai trafficanti. So di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto il traffico della droga. Moltiplicate 8.500 per 600 euro circa, che è il costo di ogni viaggio, e avrete delle cifre che sono abbastanza significative. 8.500 in 3 giorni, in 3-4 giorni. Potrebbe anche essere, forse la cosa potrebbe essere anche più inquietante, che si perseguono da parte di alcune di queste ONG finalità diverse, di destabilizzazione per esempio dell'economia italiana. Queste, care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le accuse molto molto pesanti mosse dal procuratore di Catania, Zuccaro, a proposito dell'inchiesta che ha aperto la sua procura nei giorni scorsi su una possibile complicità, collusione tra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani. Addirittura Zuccaro dice non solo che questo traffico potrebbe fruttare più della droga, ma che potrebbe esserci dietro un progetto di destabilizzazione dell'economia italiana. Quindi chiaramente sono delle accuse pesantissime. Ha risposto oggi Minniti, ministro dell'Interno, dicendo attenzione a non generalizzare sulle organizzazioni non governative, non vanno sottovalutate queste accuse, ma ci vogliono le prove, ci vogliono gli atti. Insomma, una polemica che poi ha, diciamo, coinvolto molto il dibattito politico, con chi si schiera da una parte, chi dall'altra, e chiaramente no, si cavalca un po' anche questa vicenda, di cui parleremo naturalmente questa sera fra i molti fatti che vi racconterò come sempre, e poi molti altri temi, per esempio la richiesta che è arrivata al processo di Mafia Capitale, 515 anni di reclusione in totale per i 46 imputati, e poi una storia molto particolare, molto triste, di una ragazzina che era morta l'estate scorsa ad agosto per leucemia, perché si era rifiutata insieme ai genitori di curarsi con la chemioterapia. Adesso i genitori rischiano un processo, ma in questo caso chi deve decidere? Lei era minorenne fino a alcuni giorni prima di morire. Ne parleremo con una famosa, nota, bravissima giudice minorile, ex presidente del Tribunale dei Minori di Roma. Insomma, tanti fatti importanti da approfondire. Dopo, come sempre con gli ospiti, prima però vi racconto tra pochissimo la giornata, e vi ricordo come sempre che c'è per voi la pagina Facebook di Effetto Notte, per aderire senza indugio, ma anche per intervenire naturalmente qui con il programma, oppure attraverso i SMS e WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. I fatti principali. La tragedia di Rigopiano: sono 6 le persone indagate per i 29 morti nell'hotel travolto dalla valanga lo scorso 18 gennaio in Abruzzo. Il processo per Mafia Capitale: arrivano le richieste dall'accusa, 28 anni di carcere per Carminati, 26 per Buzzi. Londra, accusato di terrorismo un uomo fermato nel pomeriggio vicino al Parlamento britannico. La polemica sui migranti, bufera sul procuratore di Catania che torna ad alludere a collegamenti tra le ONG e il traffico di migranti, con nuove e più pesanti accuse. All'Italia, Padoan assicura massima tempestività sui commissari e precisa che il governo non è disponibile a partecipare a un aumento di capitale. Intanto Lufthansa si sfila e dice non vogliamo acquistarla. Padova, una ragazza rifiutò la chemio e morì di leucemia, i genitori indagati per omicidio colposo. Ad Aversa il primo sì di una trans, Alessia sposa Michele e dice fate come me, non vi nascondete. Partiamo quindi dalle novità nell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano, l'hotel travolto a Farindola, vi ricordate, in Abruzzo, da una valanga lo scorso 18 gennaio che provocò la morte di 29 persone. Ci sono 6 indagati, tra i quali il sindaco di Farindola, il direttore dell'albergo e il presidente della provincia di Pescara. I 6 sono iscritti sul registro per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose. Tra poco cercheremo di capire il perché e anche di ricostruire quella vicenda. E poi il processo per Mafia Capitale. Oggi sono arrivate, appunto, come dicevo, le richieste di condanna per 46 imputati. Una richiesta, quella della Procura di Roma, per complessivi 515 anni di carcere per i 46 imputati, 28 anni in particolare quelli chiesti dal procuratore aggiunto Paolo Ielo per Massimo Carminati, considerato ai vertici di Mafia Capitale, e 26 anni e 3 mesi per il cosiddetto RAS delle cooperative, Salvatore Buzzi. Carminati e gli altri 18 imputati, ai quali la Procura contesta il 416 bis, sono accusati di aver fatto parte di un'associazione di stampo mafioso operante a Roma e nel Lazio, che si avvaleva della forza di intimidazione intimidazione per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e il controllo di attività economiche. Un'organizzazione, per dirla con le parole usate da Carminati nelle intercettazioni, che operava in un mondo di mezzo, il luogo dove si realizzano sinergie criminali tra diversi ambienti, quello dei colletti bianchi e le bande di rapinatori e spacciatori. Alla richiesta della procura, in collegamento video dal carcere, Carminati ha esultato alzando le braccia al cielo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nel corso di Fettonotte ritorniamo su questa vicenda decisamente intricata. Adesso passiamo alla sempre più accesa polemica sui migranti. Si torna, quindi avete sentito all'inizio, a parlare dei presunti rapporti tra organizzazioni non governative e trafficanti di immigrati al largo della Libia. A mio avviso le ONG potrebbero essere finanziate, alcune ONG, ripeto, ma tenuto distinto, dai trafficanti. So di contatti. Così Carmelo Zuccaro, procuratore di Catania, ai microfoni di Agora Rai 3, in merito alle polemiche sollevate dall'inchiesta aperta dal suo ufficio sulle attività in mare dell'ONG e su presunte collusioni tra operatori umanitari e trafficanti libici. Un traffico, quello dei migranti, che oggi sta fruttando quanto quello della droga, ha continuato Zuccaro, secondo il quale addirittura alcune ONG mirerebbero a destabilizzare l'economia italiana per trarne vantaggi. Alle nuove dichiarazioni del procuratore di Catania hanno fatto seguito a stretto giro quelle del ministro dell'Interno Marco Minniti. Si tratta di evitare generalizzazioni, giudizi affrettati, attenendosi quindi ad una rigorosa valutazione degli atti. Durante il question time alla Camera, Minniti ha inoltre fatto sapere che il governo ha aperto un canale di scambio informativo con la Commissione UE, l'agenzia Frontex e il servizio diplomatico dell'Unione Europea. Ha poi sottolineato che all'inizio di maggio saranno presentate le conclusioni di un'analoga indagine della Commissione Difesa del Senato. Interpellato a riguardo, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha detto di sperare che Zuccaro parli attraverso le indagini, gli atti, perché è il modo migliore. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sulle ONG in furia la polemica politica e se il governo invita a non generalizzare la Lega attacca. ONG forse finanziate da trafficanti? Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Ironizza Salvini su Facebook. Mentre la leader di Fratelli d'Italia si chiede cos'altro aspetti il governo a fermare le navi delle organizzazioni non governative. Dal PD invece l'invito al magistrato a fare i nomi, a delineare i fatti e anche Forza Italia chiede chiarezza ma definisce irresponsabile Di Maio nel suo attacco a tutte le ONG, ma il vicepresidente della Camera tiene il punto, gli ipocriti continuino pure ad attaccarmi, io vado fino in fondo, scrive in un tweet, e anche Di Battista invita a prendersela con chi lucra sulla pelle dei migranti e non con chi ha semplicemente chiesto di fare chiarezza. E intanto le ONG insorgono, basta con le accuse generalizzate, se ci sono prove che emergano quanto prima, ribadisce Valerio Neri, direttore generale di Save the Children. Sono accuse che nascondono una visione ipocrita di chi non vuole salvare vite in mare, afferma Monsignor Giancarlo Perego, vescovo di Ferrara e direttore della Fondazione Migrantes, mentre il presidente della Caritas Italiana e arcivescovo di Agrigento Montenegro invita a non fare di tutta l'erba un fascio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E tra poco su questo sentiremo, nel corso di Fettonotte, su questa polemica, il viceministro dell'Interno Bubbico. Ma adesso andiamo sulle notizie dall'estero. La polizia di Londra ha accusato di terrorismo un uomo arrestato oggi pomeriggio vicino al Parlamento britannico, proprio nella stessa zona dell'attentato di poco più di un mese fa. Londra, Parliament Street. È il primo pomeriggio quando fra il Palazzo di Westminster, sede del Parlamento, e i principali edifici governativi, un gruppo di poliziotti controlla un uomo, lo blocca e lo placca a terra. Ha 27 anni, una lunga barba e porta sotto la tuta tre grandi coltelli che gli vengono subito sequestrati. È stato arrestato sulla base della legge antiterrorismo inglese perché sospettato di aver voluto commettere un atto di terrorismo e ora è accusato di detenzione di armi. Per la polizia però non ci sarebbe paura di altre minacce collegate all'incidente che, dicono gli inquirenti, è da considerarsi chiuso. Secondo le prime indiscrezioni il fermato era conosciuto dalle forze dell'ordine e tenuto sotto sorveglianza. Il luogo dell'accaduto dista un centinaio di metri da Downing Street, residenza della Premier May. Nella stessa zona, il 22 marzo, l'attentato in cui un uomo convertito all'Islam ha investito con un SUV numerosi passanti, uccidendo quattro persone, per poi accoltellare a morte un poliziotto all'ingresso di Westminster. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da Londra agli Stati Uniti, sabato sarà il 100° giorno di Donald Trump alla Casa Bianca ed è tempo di un primo bilancio. Secondo l'ultimo sondaggio di CNN Ork, il 44% degli americani approva finora il suo operato, mentre il 54% lo disapprova. Per lo stesso Trump, i primi 100 giorni della sua presidenza sono andati benissimo, dice: mi darei una A, che corrisponde al 10, così ha detto il presidente americano al Washington Examiner, nel sottolineare i successi della sua azione, che da molti è stata definita poco incisiva, senza alcun risultato. Trump ha citato la nomina di Neil Gorsuch, che è il giudice alla Corte Suprema, il giudice antiabortista, e i suoi incontri con i leader internazionali, dice, per gettare le fondamenta per il futuro. Di nuovo in Italia, con la crisi di Alitalia, nessun interesse per la compagnia da parte di Lufthansa, FS e Banca Intesa, tirate in ballo in queste ore da varie parti. Il ministro dell'economia Padoan ribadisce che il governo non è disponibile a partecipare direttamente o indirettamente a un aumento di capitale della società. Lufthansa, Ferrovie e Banca Intesa si tirano fuori dal salvataggio di Alitalia dopo le indiscrezioni circolate su un loro possibile coinvolgimento. Abbiamo una chiara intenzione di non acquistare Alitalia, chiarisce il direttore finanziario della compagnia aerea tedesca Ulrich Svensson. Argomento di nessun interesse per FS, e Banca Intesa fa sapere di non avere alcun piano B per Alitalia, anche perché non ne ha competenza. Il governo, assicura il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, agirà tempestivamente nella nomina dei commissari se questa sarà la soluzione scelta dall'assemblea dei soci Alitalia il 2 maggio. I fondi dello Stato, dice Padoan, serviranno solo ad evitare lo stop dei voli aerei. L'eventuale intervento finanziario dello Stato sarebbe finalizzato esclusivamente ad evitare l'interruzione delle attività e sarà oggetto di approfondimento nelle prossime ore. Confindustria auspica che la difficile crisi Alitalia si chiuda al meglio. Vincenzo Boccia, presidente degli industriali. Mi sembra una vicenda che sia specchio del paese. Viviamo una fase di emergenza come paese e non c'è questa consapevolezza. C'è sempre qualcuno che pensi che paghi un altro. I sindacati difendono il lavoro fatto, nonostante il no dei lavoratori al preaccordo sulla ricapitalizzazione da 2 miliardi siglato con l'azienda. Per la segretaria della CISL, Anna Maria Furlan, Alitalia è un caso industriale e così deve essere trattato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Alitalia intanto ha ribadito in una nota che non vi sarà alcun impatto sull'operatività, sulla programmazione dei voli, nessun problema per chi ha acquistato o acquisterà biglietti. E poi, a proposito di trasporti, riaprirà domani la linea ferroviaria del Brennero, chiusa dopo l'incidente di ieri con 2 morti a Bressanone. Oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e di ditte appaltatrici sono al lavoro da ieri per ripristinare l'infrastruttura ferroviaria rimasta seriamente danneggiata. Finora il servizio è garantito da autobus sostitutivi fra le stazioni di Bressanone, Bolzano, Brennero e Innsbruck. E siamo così alla politica italiana col dibattito sulla legge elettorale. Legge elettorale e alleanze future inaspriscono la campagna delle primarie PD. Matteo Renzi chiude ai fuoriusciti Dem: con quelli che sono andati via non faremo alleanze, avverte, non perché mi hanno insultato, ma perché hanno tradito decine di migliaia di militanti. L'ex premier continua a ribadire di essere per il maggioritario, servono collegi per i rapporti tra parlamentari e territori, altrimenti si rischiano troppi cambi di casacca. Ma il timore all'interno del partito è quello di un'alleanza post-elettorale con Silvio Berlusconi. Andrea Orlando lo ribadisce a Repubblica TV. Il ministro della giustizia guarda invece al centro-sinistra e a Giuliano Pisapia. Tra la scelta tra Berlusconi e Pisapia, se si dovesse porre questo tema, anzi si porrà questo tema, io chiederò la convocazione di un referendum, è previsto dal nostro statuto, per decidere se andare con Pisapia o andare con Berlusconi. In tutto questo, il 30 aprile si vota per le primarie. Per Renzi sono sufficienti 1 milione di voti, per Orlando invece bisogna arrivare a 2. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso del caso della ragazza che morì dopo aver rifiutato la chemio. La procura di Padova indaga per omicidio colposo aggravato i genitori di Eleonora Bottaro, morta l'estate scorsa. Indagati per omicidio colposo per non aver curato la figlia dal tumore, con l'aggravante della cosiddetta previsione dell'evento. Così la procura di Padova si è espressa nei confronti di Lino Bottaro e Rita Benini, genitori di Eleonora Bottaro, la giovane uccisa dalla leucemia dopo aver rifiutato la chemioterapia l'estate scorsa. Non ce l'aspettavamo aspettavamo, dice l'avvocato che rappresenta la famiglia, Gianmario Balduin. I genitori erano decaduti dalla patria potestà, c'era un tutore, era Eleonora che non voleva assolutamente subire la chemio. Loro erano contrari alla chemioterapia, diciamo come terapia? Oddio, estremamente favorevoli, se devo essere sincero, non lo erano. Erano stati i medici a chiedere l'intervento dei giudici, convinti di poter salvare Eleonora, come ci racconta il professor Basso, primario dell'ospedale di Padova, dove era stata ricoverata in un primo momento la ragazza. Di fronte al rifiuto dei genitori di incominciare una terapia per una malattia curabile, abbiamo chiesto l'opinione al Tribunale dei Minori, visto che Eleonora allora non era maggiorenne. La risposta del Tribunale dei Minori è arrivata successivamente al fatto che i genitori hanno firmato una dimissione volontaria e hanno portato via la ragazza. La leucemia linfoblastica acuta, la malattia di cui era affetta Eleonora, è una malattia mortale. Con la chemioterapia, oggi i risultati standardizzati sono di guarire almeno 4 pazienti su 5. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, una storia molto dolorosa sulla quale poi sentiremo un ex giudice del Tribunale dei Minori, una storia molto, molto complessa, poi ne parleremo più in modo approfondito. Adesso, sempre con la cronaca, un uomo, Lucio Niero, la notte del 29 aprile 2006, strangolò e seppellì ancora viva la ragazza ventenne Jennifer Zacconi, con cui aveva una relazione extraconiugale, che aspettava un figlio da lui, era l'ottavo mese di gravidanza. Ora, dopo 11 anni, il killer può uscire con permessi premio. C'è naturalmente ira della famiglia della ragazza. Lucio Niero all'epoca aveva 34 anni, era sposato con due figli, gestiva un locale a Olmo di Martellago in provincia di Venezia, proprio lì aveva conosciuto questa ragazza al locale, quel bimbo che lei aspettava era suo, anche se lui aveva cercato più volte di convincerla ad abortire, lei non ne voleva sapere, quella notte l'ha strangolata, è ancora viva come risultato poi dall'autopsia. La seppellita, perché poi è morta soffocata dal fango in una notte piovosa. Per giorni si sperò che la ragazza fosse viva, poi i carabinieri lo costrinsero a confessare e a portarlo, a portarli a ritrovare il cadavere. Ora i primi permessi premio per uscire dopo 11 anni dal carcere. E adesso un sì inedito. Signor Picone Michele, intende prendere per moglie la qui presente signorina 5 grana Alessia? Sì. Lei, signorina 5 grana Alessia, intende prendere per marito il qui presente signor Picone Michele? Sì. In seguito alla risposta affermativa, in nome della legge vi dichiaro marito e moglie. E così si è sposata la prima trans in Italia, Alessia 5 grana, ex Miss Trans, che ha ottenuto l'attribuzione del sesso femminile e il riconoscimento del nuovo status senza però passare per l'intervento chirurgico. Si è sposata al municipio di Aversa, in Campania, con il compagno Michele Picone. Una folla di parenti, l'avete sentito, curiosi, giornalisti, ha prima atteso la coppia davanti al comune e poi con questo applauso corale. Alessia spiega poi che le scritte omofobe che sono apparse nella mattina su un muro nei pressi del municipio, dice, non mi toccano, queste persone sono represse, io invece sono felice di ciò che sono. Ebbene, allora, lunga vita a questo matrimonio. Noi ci fermiamo brevemente perché così aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo ad approfondire i vari temi con gli ospiti. Vedo già diversi messaggi sulla polemica della possibile complicità tra Hong e trafficanti di esseri umani. C'è un ascoltatore, Emanuele, che dice, insomma, vi prego di ascoltare bene quello che si dice, dice, ah, come le accuse gravissime sono contro le ONG e la tempesta sarebbe sul giudice, ma siete di parte, Emanuele, chi ha detto niente, semplicemente raccontato i fatti di accuse pesantissime che effettivamente fa il procuratore di Catania, se sono vere, se fossero vere, vediamo. E poi dall'altra parte chi dice, insomma, vogliamo vedere però prima le prove, si parli con gli atti alla mano, quindi semplicemente cronaca questa, Emanuele, mi raccomando, non partiamo subito lancia in resta con i pregiudizi o capendo, insomma, a modo proprio. E poi ringrazio anche tutti i vari benvenuti, anche Beatrice, eccetera, bentornata, sono qui da ieri dopo un incidente, non informissima, ma insomma ho ripreso in mano il timone. Ci sentiamo tra pochino. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E siamo subito insieme, Roberto Giordano sempre con voi, sino alle 22, ricordatevi, ogni sera dal lunedì al venerdì per sentire il racconto delle notizie principali della giornata, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo, perché se ascoltate Effetto Note tutte le sere, la vostra colonna sonora della sera. E a proposito dei messaggi, dicevo, anche su questa polemica, dopo le accuse del procuratore di Catania, c'è chi dice come Alberto il complottismo sta rovinando l'Italia e il mondo, e c'è invece chi dice, Luca dice, chi lo aveva dichiarato qualche giorno fa, cara Roberta? Sì, il Movimento 5 Stelle naturalmente, però bisogna vedere appunto se effettivamente ci sono le prove, quali fossero, se ci fossero le organizzazioni non governative che si comportano in questo modo. Comunque Minniti, oggi il ministro dell'Interno, ha parlato in un'interrogazione alla Camera dicendo che sono accuse che certamente non vanno sottovalutate, ma che ci devono essere appunto i fatti, le prove. Guido scrive: i procuratori dovrebbero agire in silenzio invece di farneticare in pubblico cercando visibilità e creando confusione a tutto campo. Insomma, varie opinioni vostre al 349-238-6666, che è il numero per messaggio SMS, oppure sapete che c'è per voi sempre anche la pagina Facebook di Effetto Note. Vi ricordo velocemente i fatti per chi non li avesse sentiti prima, ma ricordatevi di accendere puntualmente le 21 e poi passiamo ai temi da approfondire. La tragedia di Rigopiano: sono 6 le persone indagate per i 29 morti nell'hotel travolto dalla valanga lo scorso 18 gennaio in Abruzzo, ne parleremo tra pochissimo. Il processo per Mafia Capitale: sono arrivate le richieste dell'accusa, 28 anni di carcere per Carminati, 26 per Buzzi. E poi da Londra, accusato di terrorismo un uomo fermato nel pomeriggio vicino al Parlamento britannico, la polemica sui migranti di cui dicevamo e scrivevate, bufera sul procuratore di Catania che torna ad alludere ai collegamenti tra organizzazioni non governative e traffico di migranti, con nuove e più pesanti accuse. All'Italia, Padoan assicura massima tempestività sui commissari e precisa che il governo non è disponibile a partecipare a un aumento di capitale. Padova, una ragazza che rifiutò la chemio e morì di leucemia, i genitori indagati per omicidio colposo. E poi, per alleggerire, avete sentito poco fa il primo sì ad Aversa di una trans, Alessia, che sposa Michele e dice: fate come me, non vi nascondete. Allora, cominciamo con i temi, con le novità che riguardano l'inchiesta della tragedia di Rigopiano, tragedia che certamente nessuno ha dimenticato, la valanga che lo scorso 18 gennaio travolse l'hotel Rigopiano a Farindola, provincia di Pescara, in Abruzzo, dove si trovavano 40 persone, fra clienti, 28 clienti e dipendenti, che erano 12, e provocò 29 vittime, quindi 15 uomini e 14 donne. Per quella tragedia sono arrivati adesso 6 avvisi di garanzia dalla procura di Pescara, tra indagati anche il sindaco di Farindola, il presidente della provincia di Pescara e il direttore dell'hotel. Ne parliamo con il nostro Daniele Morini. Ciao Daniele. Ciao, buonasera. Che in quei giorni tragici seguì questa vicenda. Allora, i 6 sono iscritti, Daniele, nel registro di indagati per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, nel senso, per chi non lo sapesse, non perché abbiano voluto volontariamente provocare quelle morti, ma sono sospettati, insomma, di aver agito in qualche modo con negligenza, imprudenza, e che comunque hanno causato poi quelle morti, Daniele. Esatto, sono proprio queste, un po' come dire, le parole chiave di questa indagine, di questa inchiesta giudiziaria: negligenza, imprudenza e imperizia proprio nella gestione, no, di quella che si era creata come situazione di emergenza in generale, perché lo ricordiamo che in quei giorni furono circa 300.000 ad esempio le persone al buio per la corrente elettrica che se n'era andata a causa del maltempo, tutto il problema sulle strade, spazzaneve, turbine e quant'altro, e per quello soprattutto, ovviamente, i 6 indagati, per quello che invece è stata la situazione in particolare di emergenza che si era creata all'hotel Rigopiano di Farindola. Tra l'altro va detto che proprio nei giorni scorsi, in occasione dei 3 mesi dalla sciagura, il comitato delle vittime dell'hotel Rigopiano aveva organizzato a Pescara un flash mob, come si dice oggi, cioè un evento molto particolare, un cerchio in piazza con i bambini, fasce bianche a ricordare la neve al braccio, 29 colombe che si alzavano nel cielo, proprio per ricordare i 3 mesi, soprattutto per portare in piazza i dolori, le memorie, i ricordi e, come dire, sollecitare le istituzioni, soprattutto la magistratura, a fare piena luce, piena chiarezza sulle responsabilità. In quell'occasione era intervenuto insieme con il comitato il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che figura proprio stamattina si è trovato anche lui, visto recapitare uno di questi avvisi, diciamo, di iscrizione nell'elenco degli indagati. Gli altri, come si è detto anche nei notiziari oggi, sono il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, il direttore stesso dell'albergo, Bruno Di Tommaso, due funzionari della provincia, cioè Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, e un dipendente del comune di Farindola, Enrico Colangeli. Questo è il quadro della situazione di oggi. Daniele, tra l'altro, appunto, ricordiamo questa violenta bufera di neve che si era verificata in quei giorni, anche di terremoto, no? In cui l'Abruzzo era fra le regioni più martoriate per le scosse di terremoto, e questa valanga probabilmente è legata, no, a quelle forti scosse di terremoto. Gli ospiti dell'hotel Rigopiano erano completamente isolati da quella nevicata notturna, e uno di loro era uscito per caso per prendere le pastiglie per la moglie, era stato uno dei superstiti e quello che per primo aveva dato l'allarme. Però pare che fossero state prese, insomma, questi primi allarmi sotto gamba. Vogliamo sentire, per ricreare un po' l'atmosfera, fra le varie telefonate che si sono sentite poi a posteriori di quei giorni, questa intercorsa proprio nel pomeriggio, dopo che già era partito l'allarme, una telefonata della prefettura all'amministratore, proprio all'amministratore delegato dell'hotel Rigopiano. Sentiamo. Sono il dottor Lupi, sono stato spesso ospite da voi, ultimamente proprio quando è successo il secondo terremoto, e ho visto che è tutto là, la struttura in cemento armato. Adesso abbiamo avuto una telefonata di una persona che diceva che l'hotel Rigopiano c'erano feriti, cose per crolli, eccetera, eccetera. Abbiamo la telefonata registrata nella nostra centrale operativa. Questa telefonata registrata nel nostro sistema 118 non risponde poi più. A noi, benché ci si metta trucco, trucchetto, anonimo, eccetera, il numero di telefono ci appare sempre e quindi non ci appare più. Tu hai notizia? Ma certo che ho notizia. Quindi tutto a posto. Cioè, è tutto a posto. Benissimo, guarda, mi fa un grande piacere, sarò tra poco a metà febbraio di nuovo vostro ospite. E quindi, no, che devo dire? L'importante è che è sicuro che non ci sia niente. No, io sono stato fino a mo in collegamento. Allora, tramite WhatsApp, perché... Perfettissimo, perfettissimo. Noi abbiamo una parabola per cui il segnale internet è garantito, io riesco a comunicare con WhatsApp. Perfetto. Tutto quanto, ma non... Perfetto. Direttore, mi dà un gran sollievo. Ecco, quindi abbiamo detto questa telefonata intercorsa allora nel pomeriggio, quando già era partito l'allarme, tra telefonata tra un dirigente della prefettura e l'amministratore dell'hotel. Questo, Daniele Morini, dimostra ancora una volta come quantomeno la comunicazione abbia funzionato malissimo, no, in quei giorni. Sì, assolutamente sì, dimostra che non c'è una causa o poche due o tre cause, ma che ci sono una serie di concause tra loro. Non a caso la magistratura parla nelle ordinanze di questa mattina di concorso colposo e cooperazione fra loro, per indicando le sei persone indagate, proprio perché una serie di negligenze, non una sola negligenza o imperizia o imprudenza, ma una serie di queste cose combinate insieme hanno purtroppo causato quello che è successo, poi anche con i ritardi appunto nei soccorsi, per questo allarme, poi smentito, poi di nuovo allarme, l'arrivo nella notte, eccetera. Va detto, sempre pensando un po' alle reazioni di queste ultime ore dei familiari. I familiari, infatti, anche loro hanno fatto dichiarazioni. Dei familiari hanno rilasciato varie dichiarazioni, chiaro che... sono, come dire, non dico contenti, ma sono quantomeno speranzosi del fatto che si cominci a intravedere, no, un po' di giustizia, o quantomeno la giustizia riesca a fare i primi passi, però si dichiarano anche in parte scontenti, perché secondo loro ci sono anche altre responsabilità, magari non contingenti, ma un po' più ampie, relative ai piani neve, a tutto quello che poi dipende da altre istituzioni sovraordinate, se vogliamo, a quelle coinvolte, cioè comune e provincia, quindi anche la regione, eccetera. E un'altra cosa che a me ha colpito molto di questa giornata così di cronaca giudiziaria è, come dire, la delusione per il fatto, ad esempio i familiari hanno fatto un esempio, cioè il piccolo Edoardo, che è uno dei bambini estratti ma purtroppo rimasto senza genitori, familiari delle vittime dicono nessuna istituzione si è fatta viva con questo bambino, cioè per anche solo interrogarsi, chiedere magari ai familiari che sono rimasti, sorelle, nonni, eccetera, come poter andare avanti, no, con questo bambino, chi se ne occupa, eccetera. Questi sono purtroppo lati, no, di questa storia che ci lasciano molto perplessi, perché ci fanno capire che insomma, qualcuno si è dimenticato. Sì, quando i riflettori si spengono sulla vicenda, su tutto il circo mediatico, diciamo così, no? Un po' cinicamente, poi diciamo chi dovrebbe occuparsi, le autorità politiche, insomma a certi livelli, anche di capire poi cosa è successo, come stare vicino alle persone, come aiutarle, si ritirano, insomma, quando si spengono le luci. Grazie Daniele Morini, intanto. Grazie, buona Ciao serata. Daniele. E lì ricordo che tra l'altro c'era anche il vice ministro dell'interno Filippo Bubbico, che proprio in quei giorni era presente quando è successa questa tragedia, presente sul posto, ha seguito gli interventi di soccorso. Ministro Bubbico, buonasera. Sì, buonasera. Ricordo che era in collegamento qui con Effetto Note, era in diretta con me proprio lì dalla tragedia di Rigopiano. Però giornate terribili. Giornate terribili. Però questa sera io vorrei parlare con lei di un'altra vicenda molto... Sì, molto... però mi faccia dire una cosa sul minore, sul bambino. Io penso che bisogna essere molto precisi, perché quando si dicono cose inesatte non va bene. I minori vengono tutelati dai tribunali dei minori, nessuno è abbandonato a se stesso, e quei bambini, il bambino orfano dei genitori è stato sicuramente affidato a persone che sono in grado di prendersene cura, e ove mai ci fossero problemi le istituzioni competenti intervengono. Quindi bisognerebbe dire con precisione le cose, mi riferisco all'ascoltatore che citava questo episodio. Sì, no, era il cronista che riportava le dichiarazioni dei familiari delle vittime, o appunto di persone che sono rimaste, di bambini che sono rimasti in questo caso, come il piccolo Edoardo, senza genitori. Però, ministro Bubbico, invece stasera con lei volevo parlare di questa vicenda che sta diventando proprio un caso politico e un motivo di forte polemica, no? La Procura di Catania nei giorni scorsi ha aperto questa inchiesta sulla possibile complicità, collusione tra organizzazioni non governative che soccorrono i migranti e trafficanti di esseri umani. E dopo già un dibattito acceso che c'è stato nei giorni scorsi, oggi il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, o Zuccaro, c'è anche dibattito sull'accento del cognome, è comunque aggiunto delle accuse molto pesanti. Vogliamo sentirlo ad Agorà su Rai 3. A mio avviso le ONG potrebbero essere finanziati, alcune ONG, ripeto, tenuto distinto, dai trafficanti, e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto il traffico della droga. Moltiplicate 8.500 per 600 euro circa, che è il costo di ogni viaggio, e avrete delle cifre che sono abbastanza significative. 8.500 in 3 giorni, in 3-4 giorni. Potrebbe anche essere, forse la cosa potrebbe essere anche più inquietante, che si perseguono da parte di alcune di queste ONG finalità diverse, di destabilizzazione per esempio dell'economia italiana. Ecco, diciamo, addirittura immagina, secondo evidentemente... Ma parlava un procuratore della Repubblica, un magistrato? Il procuratore Zuccaro. Perché normalmente i procuratori parlano attraverso gli atti e dicono fatti e circostanze molto precise quando ritengono di poterlo dire, quando non ci sono esigenze di cautela perché le indagini possano essere svolte in maniera appropriata. A me sembrava più la voce di un commentatore politico, di un passante che esprime un'opinione su un fenomeno, o nella migliore delle ipotesi di un sociologo che si occupa di un fenomeno. La nostra magistratura parla, appunto, ripeto, con atti, citando circostanze precise, quando è il momento di farlo. Diversamente agisce con i criteri propri della indagine, della investigazione, perché possano essere individuati responsabili di fatti penalmente rilevanti e portati dinanzi ad un giudice che poi valuta gli elementi di accusa. Quindi secondo lei il ministro Bubbico ha fatto delle dichiarazioni inopportune, il procuratore non di Catania? Non lo so, io ho letto una dichiarazione del ministro della giustizia, del ministro Orlando, che esattamente diceva questo, come tutti ritengo possano e debbano condividere, i magistrati parlano con gli atti, non fanno commenti. Però secondo lei, ministro, se ha detto una cosa del genere, per esempio alcuni ascoltatori scrivono: un procuratore della Repubblica non oserebbe affermare nulla del genere se la situazione non fosse davvero allarmante, meno male che questa inchiesta è stata avviata. E allora sarà necessario che qualcuno venga portato dinanzi ad un tribunale, ad un giudice, sulla scorta di fatti e circostanze precise e di rilievi, di condotte penalmente rilevanti. Diversamente siamo alle chiacchiere da bar. Ora, che possano esserci fatti di questo genere, nessuno è in grado di escluderlo, ma appunto è il lavoro della magistratura accertare i fatti, individuare i responsabili e agire di conseguenza. Noi viviamo in uno stato di diritto. Non siamo alla barbarie giuridica o alle opinioni pronunciate in libertà. Quale pensa che possano essere i prossimi passi, ministro Bubbico, per capire un po' come stanno le cose, quindi? Ma la magistratura ha tutti gli strumenti per accertare i fatti e gode di di poteri costituzionalmente garantiti e dell'autonomia che la nostra Costituzione affida alla magistratura, e quindi, come in tante altre circostanze è accaduto, se esistono fatti penalmente rilevanti verranno segnalati. Il fenomeno dal punto di vista politico, dal punto di vista delle dinamiche, degli interessi e delle connessioni anche con ambienti criminali è abbastanza osservato, ma un conto è la valutazione politica, altro conto è la valutazione giuridica e la contestazione di condotte penalmente rilevanti. Sul piano politico e dell'analisi dei fenomeni, queste ipotesi sono plausibili, ma di qui a sostenere che le organizzazioni non governative svolgano attività illecite per favorire qualcuno o in connessione con ambienti criminali, mi pare che ne passi di strada, quindi bisogna fare molta attenzione, non è con i clamori, il punto piuttosto è che il flusso migratorio esiste, c'è chi si arricchisce, chi lucra, e molti di questi soggetti sono stati portati davanti ai tribunali, sono stati condannati, ma bisogna intervenire sulle cause che originano questi flussi. Ed è una questione complicatissima, Ministro Bubbico, sulla quale avremo tempo di tornare, perché poi adesso con il bel tempo, insomma, i flussi diventano ancora più consistenti e il problema effettivamente c'è, poi al di là appunto di questa polemica così specifica. Grazie Ministro Filippo Bubbico, grazie, buon lavoro. Buonasera. Grazie. Abbiamo questa pausa? Sì, tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Ritorniamo insieme e cambiamo argomento, abbiamo parlato già di molti fatti, di molte notizie principali, adesso parliamo delle novità che riguardano il processo su Mafia Capitale. Intanto continua la vostra interazione sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, numero per WhatsApp ed SMS. Per esempio dice questo ascoltatore: le prove ci sono di queste, secondo l'ascoltatore, di questa complicità tra Hong e trafficanti, solo dice che devono essere rilevate come da polizia giudiziaria e che la politica non dà mandato. Però avete sentito poco fa il vice ministro dell'interno Bubbico che dice: noi siamo, è possibile che ci siano, che queste analisi sono già state fatte, però ci devono essere chiaramente delle prove, un procuratore deve essere più prudente nel fare queste dichiarazioni. E poi dice un altro ascoltatore: penso che dove corrono milioni di euro su mercati illegali ci ci sia collusione. Dice, per esempio, se il traffico di stupefacenti, questo è Karim, crea instabilità nell'economia legale, perché quello umano non può? Sì, può, ma il procuratore diceva una cosa diversa, che c'è proprio un progetto specifico, particolare, dietro a questa, quella che lui ritiene appunto una collusione tra ONG, tra alcune ONG e i trafficanti. Comunque adesso cambiamo argomento. Se non avete acceso puntualmente le 21, vi ricordo molto velocemente che i fatti principali riguardano la novità sulla tragedia di Rigopiano, di cui abbiamo parlato, cioè che ci sono 6 indagati per i 29 morti dell'hotel travolto dalla valanga dello scorso 18 gennaio in Abruzzo. Il processo per mafia capitale, di cui parleremo tra pochissimo, sono arrivate le richieste dell'accusa. E poi a Londra è accusato di terrorismo un uomo fermato nel pomeriggio vicino al Parlamento britannico. Della polemica sui migranti abbiamo appena finito di parlare con il vice ministro dell'interno Bubbico, c'è questa bufera sul procuratore di Catania che è tornato ad alludere al collegamento tra organizzazioni non governative e traffico di migranti, con nuove e più pesanti accuse. All'Italia Padoan assicura massima tempestività sui commissari e precisa che il governo non è disponibile a partecipare a un aumento di capitale. Si chiede la condanna di Massimo Carminati alla pena di 28 anni di reclusione, si chiede la condanna di Salvatore Buzzi alla pena di anni 26 e 3 mesi di reclusione, si chiede la condanna di Riccardo Bruggia alla pena di 25 anni di reclusione e 10 mesi. E queste sono le richieste dell'accusa appunto nel processo per mafia capitale, processo che ha fatto seguito a quell'inchiesta senza precedenti nella capitale, a Roma, che è stato chiamato Mondo di Mezzo, vi ricordate, no? Che ha portato in carcere decine di persone, molti indagati. Il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, nell'ambito di questa inchiesta, aveva parlato dell'esistenza di una mafia capitale tutta romana, cioè originale, non senza legami con le organizzazioni meridionali, di cui però usava il metodo, e ognuno in questa cupola romana aveva il suo ruolo, ma tutti rispondevano al capo, ovvero Massimo Carminati, che è ex NAR, quindi dell'estremismo di destra, legami con la banda della Magliana, e che sovrintende e coordina, secondo Pignatone, tutte le attività, impartisce direttive, fornisce loro schede per le comunicazioni riservate. C'è tutta questa intreccio tra colletti bianchi e esponenti del mondo politico, istituzionale, finanziario, con appartenenti alle forze dell'ordine, nei servizi segreti. Insomma, a questo punto si è arrivati nel processo a queste richieste per Carminati e per Buzzi, il cosiddetto RAS delle cooperative. Ne parliamo con Ivan Cimarrusti del Sole 24 Ore. Ciao Ivan, una vicenda complicata che ho cercato di sintetizzare così velocemente. Sì, è molto complessa, è una storia molto anche stratificata, diciamo che potremmo partire addirittura dalla banda della Magliana per arrivare all'organizzazione Mafia Capitale, di cui Massimo Carminati è la punta di diamante. Oggi la pubblica accusa, la Procura di Roma, ha chiesto 515 anni di carcere per 46 imputati, 19 dei quali dovranno rispondere dell'associazione di tipo mafioso. Non è stata concessa alcun tipo di attenuante generica, come giustamente ricordavi, 28 anni per Carminati, 26 anni 3 mesi per Salvatore Buzzi, che poi è il braccio imprenditoriale dell'organizzazione, ossia colui che riciclava il denaro e utilizzava il denaro di provenienza illecita di Carminati per investire in appalti della pubblica amministrazione, che ottenevano attraverso un presunto giro di tangenti e presunte complicità di natura politica. Ecco anche la richiesta di condanna per Luca Gramazio, consigliere regionale del PDL, per il quale sono stati chiesti 19 anni e 6 mesi di reclusione. È un'inchiesta molto complessa condotta dai carabinieri del ROS di Roma, e hanno individuato sostanzialmente capi, organizzatori, gregari, comprimari o semplici corrotti che facevano parte di un sistema molto incancrenito a Roma, però in realtà anche con sospetti collegamenti con altre organizzazioni, vedi il caso dell''Ndrangheta per esempio. Il settore più interessante sicuramente, o meglio, più che interessante, più delicato, era quello proprio degli appalti pubblici, perché loro, l'organizzazione, attraverso il sospetto coinvolgimento di Luca Odeven, che sarebbe un ex componente del tavolo tecnico sull'immigrazione del Ministero dell'Interno, ma anche ex vice capo di gabinetto quando Walter Veltroni era sindaco di Roma, riuscivano sostanzialmente a convogliare i flussi immigratori verso le cooperative di Buzzi, il quale aveva si era aggiudicato appalti per la gestione appunto dei campi profughi. Insomma, era un'organizzazione, sarebbe stata anzi un'organizzazione molto ben ramificata in vari settori della pubblica amministrazione. Ora, adesso Ivan, quindi le richieste dell'accusa e quando dovrebbe arrivare la sentenza? Allora, adesso dovranno parlare i difensori. Certo. Si prevede che la sentenza possa arrivare entro fine giugno o è massimo per la prima settimana o a metà luglio, ecco. Diciamo che, visti in genere i tempi della giustizia italiana, no? Una vicenda così complessa, tutto sommato, ha visto un processo relativamente rapido. Beh, non solo il processo, anche l'inchiesta. L'inchiesta è stata sbaltita in poco meno di 2 anni e stiamo parlando di 2 filoni di indagine. Quindi, insomma, la Procura di Roma è stata molto celere a chiuderla, anche col lavoro, insomma, dei carabinieri del ROS, che hanno, almeno stando a quello che ritiene la Procura, ricostruito con dovizia di particolari questa presunta piovra capitolina. Ecco. Adesso la palla è rimessa ovviamente alla 10ª sezione del Tribunale di Roma, che dovrà decidere se è stata un'associazione mafiosa oppure si è trattato semplicemente di una corruzione molto pesante che ha riguardato Roma e la regione Lazio. Ecco, quindi sarà interessante poi capire man mano cosa dirà la difesa e poi vedere appunto come dicevi tu se si tratta appunto dell'aggravante del reato di mafia oppure corruzione, comunque gravissimo, però ovviamente le pene immagino possano essere inferiori. Ivan Cimarrusti, intanto grazie e buona continuazione. Grazie a voi. Ciao Ivan. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci ancora insieme per gli ultimi più o meno 10 minuti. Roberta Giordano con voi sempre. I fatti principali ve li ho ricordati più volte, ne abbiamo appena parlato del processo Mafia Capitale con il PM che ha chiesto condanne esemplari, con i 2 personaggi diciamo più in vista, 28 anni per Carminati, 26 per Buzzi, ma diciamo per tutti i 46 imputati complessivamente 515 anni di reclusione. E poi la tragedia di Rigopiano con 6 persone indagate per i 29 morti dell'hotel travolto dalla valanga lo scorso 18 gennaio in Abruzzo. Abbiamo parlato anche della polemica sui migranti del procuratore di Catania che torna ad alludere al collegamento fra organizzazioni non governative e traffico di migranti con 9 più pesanti accuse e la polemica politica che infuria. A Londra, accusato di terrorismo, un uomo fermato nel pomeriggio vicino al Parlamento britannico. Per l'Italia la crisi continua. Padoan, il ministro dell'economia, assicura massima tempestività sui commissari per il commissariamento, mentre Lufthansa si sfila e dice noi non vogliamo acquistarla. E adesso parleremo di una vicenda che riguarda Padova. Allora, questa è una storia molto molto triste, perché alla tragedia della morte di una ragazzina per leucemia si aggiunge anche l'accusa per i genitori di omicidio colposo, perché la Procura di Padova ha chiuso le indagini sulla morte di Eleonora Bottaro, la 17enne di Pagnoli, vicino Napoli, morta il 28 agosto scorso. Era diventata maggiorenne il 14 agosto, è morta pochi giorni dopo, e dopo aver rifiutato la chemioterapia per curare una grave forma di leucemia. I genitori di Eleonora ora rischiano il processo perché avevano assecondato il suo rifiuto di curarsi appunto con la chemioterapia ed erano ricorsi Lino Bottaro e Rita Benini, i suoi genitori, quindi a delle cure alternative, palliative a questa cura questo medico tedesco Hammer, che ritiene che i tumori siano dovuti conseguenti a un trauma psicologico. Questa cosa per loro, diciamo, suffragata dal fatto che 3 anni prima era morto il fratello di Eleonora, che quindi lei fosse rimasta traumatizzata da questa morte. La diagnosi dei medici fu drammatica: leucemia linfoblastica acuta, però i medici del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova dissero che con la chemioterapia si poteva curare. La ragazza però non ne voleva sapere e presentò anche proprio tutto un suo dossier, varie pagine in cui diceva che lei, anche se era 17enne, era una ragazza matura, in grado di prendere le sue decisioni, e qui iniziarono quindi i contrasti tra i medici e i genitori. I medici fecero intervenire anche il tribunale dei minori, che però prese le sue decisioni dopo che già la ragazza aveva lasciato l'ospedale, quindi con i genitori si era allontanata e poi è morta appunto in agosto. Su questo, su questa storia così delicata sui genitori che appunto adesso rischiano questo processo per omicidio colposo, vorrei sentire il parere di una notissima giudice, Melita Cavallo, ex presidente del Tribunale dei Minori di Roma. Dottoressa Cavallo, buonasera. Buonasera a voi tutti. Quindi in una vicenda così uno dice, ma se la ragazzina prima 17enne, poi poco prima di morire 18enne, rifiutava così fortemente questo tipo di cura, i genitori, qualcuno poi chiede cosa potevano fare, legarla al letto, infilarle l'ago. Però penso comunque che una ragazzina di 16 anni, perché sembra che sia iniziato quando aveva 16 anni, non possa assumere queste decisioni. Comunque sono i genitori che assumono una decisione per lei, e mi sembra di aver compreso, di aver letto, che il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarò la decadenza dalla responsabilità genitoriale e nominò evidentemente, conseguentemente, un tutore. Quindi anche questo tutore non è stato, come dire, in grado di far riflettere a questa ragazzina, che a livello di complementarità poteva seguire anche quest'altra cura, però la cura, come dire, ufficiale, la cura tradizionale, la cura che certamente avrebbe avuto effetto, era la chemioterapia. Tant'è vero che bisognava far, come dire, dimostrarle per tabulas, come diciamo noi, con risultati, che con quella cura si può guarire, e ci sono tantissimi casi che si risolvono positivamente, mentre con la cura, come dire, alternativa non c'è assolutamente un successo. E quindi diciamo è venuta meno la capacità sia dei genitori, però mi sembra di aver capito che i genitori credessero nelle cure alternative e non nelle cure ufficiali. Sì, anche loro, sì. Ecco, e quindi voglio dire, sono i genitori che hanno influenzato la ragazzina, perché una ragazzina intelligente, matura, a 16 anni si guarda un po' le cose. E anche se, però, se sono i suoi genitori a, come dire, a convincerla, a sostenerla perché segua l'altra terapia, è chiaro che la ragazzina segue i genitori, no? Leggo, dottoressa Cavallo, che i magistrati avevano parlato più volte con Eleonora per capire le motivazioni della sua scelta. La ragazza, ormai alla soglia della maggiore età, aveva presentato un memoriale, 20 pagine scritte, dove diceva: sono Eleonora Bottaro, una ragazza sufficientemente matura che il 14 agosto 2016 diventerà maggiorenne. E quindi io penso, ho capito perché l'ho letto anche questo, e lei me lo pare, diciamo, mi scusi dottoressa, che non solo il fratello fosse morto 3 anni prima, quindi lei era particolarmente, quindi forse anche i genitori particolarmente provati da questa morte, ma che lei dicesse in queste motivazioni anche che poco prima era morta una sua amica coetanea che era stata curata con la chemio. Quindi al di là che sia giusto e doveroso che i genitori facciano seguire le cure scientificamente provate, però da un punto di vista psicologico si può capire un po' la situazione disastrata, molto provata, no, di questa famiglia. Sicuramente, perciò ho detto all'inizio che forse un aiuto psicologico da parte di una persona estremamente professionale e competente avrebbe potuto aiutarla. È vero che anche chi ha fatto la terapia può purtroppo non farcela, però diciamo statisticamente bisognava provarle che statisticamente c'è chi risolve il problema e vive, e chi perde la vita se segue le cure alternative, mentre le avrebbe potute fare con complementarità, diciamo insieme. È vero che le ragazzine purtroppo pensano: perdo i capelli, diciamo mi stanca, mi stressa. È vero, perché la chemioterapia è pesante, però andava sostenuta psicologicamente in tutto questo percorso. E il tutore, la figura del tutore non viene assolutamente nominata, mentre se c'è una decadenza della responsabilità genitoriale c'è un tutore. Quel tutore, non so, poteva essere un medico, io avrei nominato per esempio un medico, un pediatra di fama, che avrebbe potuto convincere questa ragazzina a seguire anche le altre cure. Ho letto che le cure erano aspirina e vitamine, va bene, fai anche quelle, però la chemioterapia diciamo ha dato in questi ultimi anni tanti successi, quindi qualcuno che potesse parlarle. Il dossier che ha scritto, l'ha scritto liberamente o l'ha scritto perché, diciamo, comunque convinta dai genitori, manipolata da qualcuno? Lei avrà avuto una rete di familiare spero estesa, non c'è stato nessuno che poteva, diciamo, come dire, sostenerla e farle comprendere che purtroppo l'esito sarebbe stato sicuramente letale, mentre l'altro, con la medicina tradizionale, l'esito poteva essere anche un esito. Chiarissimo, diciamo, dottoressa Cavallo. Quindi, per chiudere, abbiamo proprio 15 secondi. I genitori hanno questa responsabilità di fare in modo che i figli possano essere curati nel modo migliore. Vedremo, insomma, come procederà questo eventuale processo. Grazie, dottoressa Melita Cavallo. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Alle 22:00.